Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:04, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. È bastato l'arresto di due marocchini in provincia di Milano per rilanciare in Italia la paura del terrorismo internazionale. La vicenda l'avete forse seguita in questi giorni. Rashid Ilami Abdelkader Ghafir, con permesso di soggiorno a posto, da oltre 15 anni in Italia, un lavoro, una famiglia, sono in carcere accusati appunto di terrorismo internazionale, concorso esterno all'associazione di Al-Qaeda. Mesi di intercettazioni che abbiamo letto in parte sui giornali dipingerebbero due persone che parlano di jihad, di come progettare attentati a caserme, a questura, a supermercati, camion di esplosivi, di botti, di insomma, si parlava anche di militari da colpire. In alcune intercettazioni è spuntato anche il Duomo. Giorno dopo l'arresto il ministro Maroni ha detto: attenzione alle moschee, dove non è sempre agevole distinguere tra luoghi di culto e luoghi dove invece si svolgono altre attività. E dunque la Lega ha rilanciato una proposta di legge proprio sull'onda di questi arresti. Basta la costruzione di nuove moschee, fermiamole, sottoponiamo la costruzione di nuove moschee a dei vincoli, che ne so, per esempio a un referendum tra i cittadini, all'approvazione della regione, perché non istituire poi un albo degli imam per controllarli, per sapere chi sono. Una proposta che, bisogna dire, ha accolto soprattutto per il momento dal punto di vista politico dei no, delle critiche, ieri anche il Vaticano, come avete sentito in GR24. Che ne pensate? Parliamo di questa proposta, parliamo anche del rischio del terrorismo internazionale. Lo vogliamo fare con gli ospiti che vado a salutare, a cominciare da Stefano D'Ambruoso, che è un magistrato esperto di terrorismo internazionale. Buongiorno D'Ambruoso e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Così come saluto per la Lega Nord l'onorevole Andrea Gibelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Gibelli. E voglio salutare Alia Bushwaima, che ritrovo, è già stato nostro ospite, presidente del Centro Islamico di Milano e Lombardia. Buongiorno a Bushwaima. Buongiorno a voi. Allora, il rischio di terrorismo internazionale è concreto in Italia? Ovviamente l'allarme c'è stato, è bastato questo arresto e poi, non so, già il giorno dopo, già giusto per capire il clima, la metropolitana di Milano è stata bloccata per qualche ora in un tratto perché è stata trovata una borsa abbandonata. Poi fortunatamente non era niente di che. Ma insomma, e poi la proposta, appunto, bloccare le nuove moschee. Le 9:08, c'è il rischio potenziale di terrorismo internazionale, insomma, l'eco di quello che è successo tra l'altro in India, Mumbai, è ancora molto vivo ovviamente, e la proposta della Lega di bloccare la costruzione di nuove moschee. Come detto, Stefano D'Ambruoso è un magistrato che per 8 anni è stato sostituto procuratore della Repubblica di Milano, si è occupato in particolare proprio di inchieste di terrorismo di matrice islamica, è stato anche esperto giuridico presso le Nazioni Unite per l'Italia a Vienna, è un magistrato molto esperto appunto di terrorismo internazionale. E allora, procuratore D'Ambruoso, le chiedo, il rischio di terrorismo internazionale, la guardia da tenere, come si suol dire in Italia, è davvero così alta? Guardi, sicuramente esiste una diffusione di soggetti che sono legati a quello che oggi tutti i tecnici e meno tecnici chiamano jihadismo internazionale, cioè questa avvicinanza ad una volontà radicale legata al mondo musulmano radicale, che non è la maggioranza del mondo musulmano ma è quella piccola parte che ha il sogno di fare il grande martirio e di abbattere i valori del cosiddetto mondo occidentale. Ma al di là di questi slogan a cui ci siamo un po' abituati, mi sembra di dover dire, piacevolmente di poter dire, che non esiste un'organizzazione che sta pensando necessariamente all'Italia come un luogo di obiettivi da realizzare. Questo non esiste, non c'è un'Al-Qaeda che pensa e programma attentati da fare miratamente in Italia. Quello che però esiste in Italia, e dobbiamo mantenere alta la guardia, esiste una diffusione di soggetti capaci da soli di fare piccoli gesti che però possono costare la vita a molti cittadini. La cosiddette osteggio impazzite, la frammentazione di, se si può dire, di Al-Qaeda, che si può dire, come si dice ormai da tempo, è un marchio, ma poi sotto il quale qualcuno, magari anche qualche fanatico o singolo, può in qualche modo agire. Esattamente questo, c'è una frammentazione che comporta un impegno davvero a volte quasi impossibile da parte delle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono capaci di intervenire laddove c'è una struttura che si muove con un'agilità che non sempre sfugge agli occhi dell'investigatore, mentre il singolo, lo sconosciuto, chi aveva una vita regolare, come i due ultimi arrestati a Milano, che erano quasi dei cittadini normali, con permessi di soggiorno regolari, con lavori assolutamente normali, ecco, questi possono sfuggire all'attività di investigazione. Senta, procuratore, lei quando scrisse o collaborò con Guido Limpio nel libro Milano Baghdad, si esordì in quel libro dicendo e presentando senza mezzi termini sostanzialmente Milano, la Lombardia, come da questo punto di vista una base avanzata del radicalismo islamico o comunque una zona più a rischio da questo punto di vista. È ancora così? È cambiata la situazione? No, è ancora così perché Milano, insieme ad altre poche città italiane, tra queste includo sicuramente Torino e per certi versi ancora oggi Napoli, ecco, Milano ha una comunità di musulmani radicali che rappresentano un punto di riferimento o quasi di supporto, di aiuto, quasi o familiare o fisiologico, ma comunque esiste. Milano in questo senso non è cambiata nel corso degli anni, quindi è una città con una comunità capace di dare supporto a presunti o sospetti terroristi jihadisti ed è vicina all'Europa, quindi dove è facile muoversi, è facile raggiungere i confini ed è facile appunto lasciare il territorio da dove vi siano delle investigazioni. Ovviamente lei non è titolare di questa inchiesta, però oggi su Libero, per esempio, c'è un interessante editoriale di Luigi Sant'Ambrogio che sostanzialmente mette un po' in dubbio anche quello che abbiamo letto, le intercettazioni. Scrive Luigi Sant'Ambrogio nell'editoriale intitolato "Quei kamikaze Islamo Brianzoli, c'è da crederci? L'esordio: se i due marocchini arrestati a Milano sono terroristi, allora anche migliaia di ragionier fantozzi, frustrati, con desideri omicidi verso il capo, dovrebbero essere incriminati come presunti capi delle BR. Forse che delirare in italiano è meno grave che farlo in arabo? C'è davvero il rischio di crepare soffocati dal ridere a leggere le intercettazioni della coppia di sedicenti kamikaze che volevano far saltare con bombe cinesi l'intera Brianza insieme al Duomo di Milano, qualche bar della zona, un paio di esse lunga. E c'è da chiedersi se certi magistrati credono davvero a quello che scrivono o se lo facciano per millantare credito da spendere quando è il momento." Insomma, l'accusa è da dire attenzione al rischio di ingigantire delle intercettazioni, delle frasi buttate lì. Secondo lei questo rischio è reale, al di là del caso singolo, del caso poi vedremo insomma come andrà questa inchiesta? La capacità di esprimere autocritica come appartenente appunto alla magistratura che si impegna per, no, in questo caso senza grandi slogan, ma per la sicurezza dei cittadini, sicuramente questo rischio esiste, è inutile negarlo. Cioè, è molto visibile la lotta e l'attività di contrasto al terrorismo internazionale, per cui è facile che ci si possa lasciare trascinare sull'onda della visibilità che il ritorno di indagini del genere possa dare. Però attenzione, l'alternativa è il rischio rimozione totale della serietà e dell'esistenza di questo fenomeno. Dovremmo trovare una via bilanciata per considerare questo fenomeno come esistente, non ancora scomparso. Sono appena passati 7 anni dall'11 settembre, 3 da Londra 2005, eppure se non ci fosse stato l'episodio di Mumbai di 2 settimane fa, l'episodio di cui stiamo discutendo oggi, quello di Milano, forse non avrebbe avuto la stessa eco, perché si sarebbe trattato di un arresto di due marocchini mezzi pazzi che stavano progettando di far saltare in aria qualche obiettivo. Ecco, ce ne sono molti di cosiddetti mezzi pazzi, e quando uno dei tanti mezzi pazzi, se non monitorato adeguatamente con tutte le difficoltà del caso, dovesse essere fermato in tempo, ecco lì ci ritroveremmo, ripeto senza allarmismi inutili, ma lì ci ritroveremmo a dover contare i morti per strada. Procuratore, una domanda, non è il suo lavoro insomma è entrare nelle questioni politiche, però siccome poi continuiamo, abbiamo l'onorevole Andrea Gibelli, abbiamo Ali Bushwaima sulla proposta concreta della Lega, allora le chiedo, al di là della proposta, non so se lei ha un'idea o se la può e se la vuole esprimere, ma comunque dalla sua esperienza, il controllo delle moschee in generale in Italia ma anche nel mondo, o meglio le moschee sono luoghi dove purtroppo ci sono stati anche tanti casi di proselitismo, oppure c'è chi dice meglio che ci siano le moschee per evitare che ci siano i luoghi clandestini dove si riuniscono gli eventuali persone che possono affiliare persone al terrorismo? Come ha detto lei, mi scusi se mi riparo dietro insomma la mia posizione, io faccio il magistrato e seguo le leggi e deve fare legittimamente il governo che oggi sta appunto disciplinando questa materia, per cui sono rispettabilissime tutte le posizioni, ma entrambi gli aspetti che lei ha ricordato valgono. Ci sono state esperienze concrete di moschee che hanno rappresentato un punto di riferimento di soggetti jihadisti, di gente che andava nei campi di addestramento in Afghanistan e tornava e aveva riparo in alcune moschee, ma la verità è anche quella che la stragrande maggioranza delle moschee non può essere considerata di per sé un covo di terroristi, per cui grande attenzione, e in questo senso va detto in tutta franchezza che il rammentare questo da parte del Ministro degli Interni mi sembra doveroso, grande attenzione alle moschee senza impedire l'espressione di una libertà religiosa che la nostra Costituzione garantisce a tutte le religioni che legittimamente vogliono operare sul nostro territorio. E allora procuratore, rimanga con noi, so che alle 9:30 ci deve lasciare, ma prima vorrei sentire dall'onorevole Andrea Gibelli e Abu Ali Shwaima. Allora, onorevole Gibelli, ci spieghi concretamente quali sono le proposte della Lega sulla questione del bloccare le moschee, perché e come le volete vincolare l'eventuale costruzione di nuovi luoghi di culto islamici? Beh, in realtà va spiegata la motivazione che ha portato il nostro movimento a fare una proposta sicuramente provocatoria, ma che in realtà è una iniziativa che non è nuova, è nata dopo l'esperienza degli attentati di Londra del 2005, su una considerazione di fondo che ha nel terrorismo sicuramente un elemento importante, ma che non può essere limitatamente riferito a questo aspetto, perché giustamente, come dice dottor D'Ambrosio, persona stimatissima a cui mando tutta la mia stima per il lavoro che ha fatto, che chiedo anche una sua opinione sulla legge, ritenendo che tutti abbiano titolo per commentare e criticare iniziative. Vabbè, ma questo su questo però Gibelli si è già trincerato. D'Ambrosio non può esprimersi sulla legge. No, ma io mi permetta comunque di sottolineare la libertà che riconosco a tutti. Ah, vabbè, certo. In realtà questa esperienza nel 2005 su cosa si fondava? Sul fatto che la Gran Bretagna, interrogandosi su quanto era accaduto, costruendo una sorta di riflessione su sé e sul tipo di società che stava costruendo, emergeva un dato che durante le interviste della stragrande maggioranza dei musulmani presenti sul territorio, o almeno con campioni significativi, che cosa emergeva? Che nel caso in cui c'era contraddizione tra le regole della comunità e regole dello Stato di diritto in Gran Bretagna, i musulmani inglesi facevano prevalere il primo, con indagini pubblicate anche sui giornali nazionali britannici e poi riportati dai nostri giornali, dove i figli degli immigrati in realtà, rispetto alle motivazioni che Al-Qaeda e comunque la parte diciamo legata al terrorismo rispetto a un senso identitario di appartenenza a una grande comunità definita Umma, in realtà erano una percentuale significativa i cosiddetti simpatizzanti. Sì. Questo perché, e vado alla legge, perché in realtà la moschea non è un luogo di preghiera, ma è un luogo dove si raduna la comunità rispetto a una cultura che fatica a confrontarsi con l'Occidente. I punti estremi di questa fatica sono nel terrorismo, che è, come è stato sottolineato, molto ma molto limitato in termini di attività, ma l'insieme della cultura che comunque anche nel nostro paese rifiuta un modello di riferimento, tutte le scuole coraniche clandestine, ma anche quelle che tentano di parificarsi in termini di diritto nazionale, in realtà è quello di mantenere una cultura che con l'Occidente ha poco a che sì, fare. Ma perché, ma le chiedo, mi scusi, perché bloccare la costruzione di una moschea? Voglio dire, come detto, la comunità musulmana si può riunire dovunque, dove vuole, in un bar, in un centro, come lei o come me sostanzialmente. Cioè, perché identificare e fare questa associazione? La moschea è, come dice lei, non un luogo di preghiera, ma un luogo dove ci si raduna e non si sa cosa succede. Ma in realtà non, senza fare il processo alle intenzioni, perché non necessariamente l'equazione deve essere riferita al terrorismo, in realtà il rifiuto della nostra società che trova nel proselitismo all'interno di una moschea o di qualunque altro luogo che è destinato a questa autoghettizzazione della comunità islamica che a parole sì, si vuole integrare, ma in realtà non lo fa per tutta una serie di ragioni che probabilmente oggi non riusciamo a spiegare, in realtà crea quel clima che nel 2005, quando nacque questa legge, era identificato da quell'esperienza in Gran Bretagna, dove sì, in realtà l'ho sintetizzata su quella prevalenza di senso di appartenenza. Allora, vediamo, andiamo da Abu Ali Shuaima. Lei ha ascoltato il procuratore D'Ambruoso, ha ascoltato l'onorevole Gibelli. Abu Shuaima, presidente del Centro Islamico di Milano e provincia. Che ne pensa, Shuaima, del blocco delle moschee, di questa proposta? Ma la Lega sempre la Lega, perché non ha argomenti, se non deve attaccare e creare dei nemici per sopravvivere. Comunque voglio andare all'argomento. Prima di tutto, noi condanniamo qualsiasi azione che può fare, diciamo, di atti terroristici, e questi, se veramente sono terroristi, siamo più felici noi come comunità islamica di essere arrestati. Ma a vedere le accuse, io mi partecipo a quello che ha letto sul giornale Libero, che questi non possono fare se non confusioni nella nostra società in Italia, in quanto a accusare un bambino di 2 anni che vuole avere il Corano a memoria è una cosa ridicola proprio. E sì, come fosse che questo bambino potrebbe essere il terrorista del domani, eccetera. No, non l'ho capita questa. Perché a prendere il Corano a memoria è un reato. E allora il primo che viene arrestato sono io, perché io so il Corano a memoria, ma non sono terrorista. No, ecco, non l'ho capita, dottor Shuaima, mi scusi, perché una delle accuse, cioè di avere insegnato al figlio il Corano a memoria, questo non... Quello che ho letto sul giornale. Ah, ecco, no, perché io non l'avevo letta, mi scusi. Cioè, ha comprato un giocattolo di pistola, diciamo così, allora bisogna arrestare. Sì, il cellulare va e viene. Ci sono delle accuse però più concrete, insomma, le ha lette anche lei, le intercettazioni? Ecco, le accuse concrete. Quelle delle esplosioni. Ci sono, dovrebbero essere, per non fare confusione tra magistrati e questi arrestati, senza passare le notizie ai giornali che mettono quello che vogliono sopra e questo. Poi voglio dire, per le moschee, lo stesso comune dove stanno questi due ragazzi dicono che il luogo dove erano è utile per 5 persone. Lei mi dica che è una moschea di 3x3, sarà per dire che 5 persone possono stare, e quindi una stanza piccola che le chiama una moschea. In Italia devono sapere gli italiani che ci sono due moschee soltanto, è quella di Roma e quella che presiedo io a Milano Sigrate. E questi sono due moschee, il resto non sono altro che sono appartamenti, capannoni, arrangiamenti sotterranei, eccetera, che è questi che fanno confusione. Quindi bisogna dare mano libera a quelli che sono, hanno dimostrato di gestire la comunità islamica per bene e di dargli la possibilità di costruire vere moschee alla luce del sole, trasparente, e dopo tutti questi frantumi, questi pericoli, questi così, spariscono da soli. No, lei è chiarissimo, cioè dire, costruiamo più moschee, tutte regolari, tutte ufficiali, proprio per togliere tutto quel sottobosco di finte moschee locali dove si possono riunire persone non controllabili. Allora, siccome ci sono tanti ascoltatori, ma devo liberare il magistrato Stefano D'Ambruoso, procuratore, le faccio ancora un paio di domande prima della pubblicità. È un'idea anche questa, secondo lei, più giusta, quella eventualmente di controllare, sì, ma più regolamentazione anziché lasciare tutto un po' in una situazione incerta dal punto di vista delle strutture? Sarebbe meglio dal punto di vista proprio pratico del controllo, un controllo che ci deve essere, è inutile negarlo, è inutile... Sì, appunto, mi associo esattamente a questa convinzione, un controllo ci deve essere. La verità, e questo anche insomma il rappresentante della comunità islamica che ci sta parlando oggi non può negarlo, è che ogni volta che il controllo si avvicina ad essere un controllo che davvero appaia a garantire le esigenze di sicurezza che gli organi insomma della polizia hanno necessità di esprimere, e quindi ogni volta che ci sta qualche controllo che sia effettivo, tutto questo viene vissuto dalla comunità migliore, a quella che nulla a che fare con il terrorismo, come una compressione della libertà religiosa. Ecco, mi permetto di segnalare che questo è un periodo storico in cui la più grande disponibilità da parte della stragrande maggioranza della comunità islamica, che nulla a che fare con il terrorismo, verso forme di controllo, aiuterà nel medio-lungo periodo a trovare il giusto equilibrio fra libertà religiosa che deve essere espressa, ma necessità di sicurezza che ciascun paese in Europa oggi continua ad avere. E in conclusione, procuratore, lei ci ha già detto, c'è il rischio schegge impazzite, c'è il rischio di qualche pazzo isolato, però si sente di poter dire che quell'attacco che c'è stato a Mumbai con quella pianificazione in grande stile, almeno per il lavoro di intelligence che c'è in Europa e soprattutto in Italia, possiamo escluderlo, o comunque insomma sarebbe davvero più difficile che capitasse nel nostro paese. Sì, nessuno, né io né lei abbiamo la palla di cristallo, certo, evidentemente, quindi con tutte le riserve del caso io sono convinto che un attacco così strutturato, così organizzato e progettato, con tutta la libertà di movimento che c'è stata nell'organizzarlo, ecco, in Europa oggi sarebbe difficile, perché non sfuggirebbe tutta questa attività di 15 e passa soggetti che si attivano, si organizzano per assaltare più di un albergo, ecco, tutto questo non sfuggirebbe agli occhi dell'intelligence e delle forze dell'ordine preposte alla prevenzione. Allora, io la ringrazio, Stefano D'Ambruoso, magistrato, grande esperto di terrorismo internazionale, di cui si è occupato molto a Milano e anche a Vienna come responsabile per l'Italia, inviato dell'Italia alle Nazioni Unite. Grazie per essere stato con noi. Gli ascoltatori, Sergio da Genova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io volevo fare velocemente due premesse prima di fare la mia domanda. Allora, innanzitutto vorrei che si evitasse il political correct quando si chiama questo terrorismo internazionale, perché questo si chiama terrorismo islamico. Primo. Vabbè. Secondariamente, mi sembra che insomma di quello stiamo parlando, ecco, però. Sì, però c'è sempre questa specie di edulcorazione che lo si chiama terrorismo internazionale. Si chiama terrorismo islamico, secondo me. Comunque, seconda premessa veloce, che sto aspettando ancora io di accodarmi a una manifestazione di islamici, di musulmani contro il terrorismo. Io non ho mai visto una in Italia, non so in Europa, ma non credo. Passo alla domanda. Specialmente per l'esponente islamico, sì. E vorrei sapere cosa ne pensa l'esponente della Lega. Io sono totalmente d'accordo con lui che andrebbero fatte delle moschee grandi, possibilmente con prediche in italiano, però ci vorrebbe una legge altresì che proibisce questi agglomerati di fedeli in scantinati, capannoni, cantine, appartamenti e quant'altro, perché questi sono difficilmente controllabili. E poi gli vorrei ricordare all'esponente islamico che lui non ha fatto altro che perorare la causa di quelli che pensano che più o meno siano tutti collusi, perché non ne ha detto una parola di condanna verso questi presunti. Guardi, però adesso le rispondi. Sergio, allora le risponderà adesso Ali Abu Shuaima, così come l'onorevole Gibelli. Adesso però bisogna anche non distorcere le parole. Ali Abu Shuaima ha detto: se sono condannati, se sanno accusati di terrorismo, siamo i primi ad essere felici, siamo noi della comunità islamica e vanno puniti. Quindi questo, così Abu Shuaima, evitiamo di ripeterlo, perché questo l'ha detto, insomma, non neghiamo le cose dette. Prima però vorrei andare dall'onorevole Gibelli e poi torno da Shuaima. La questione per esempio delle prediche in italiano è interessante, che poi c'è anche, credo onorevole, nella proposta della Lega, cioè il controllo degli imam, addirittura creare un albo degli imam. C'è davvero questa proposta? Sì, in realtà è un aspetto che abbiamo affrontato, che misura la buona volontà a confrontarsi con una cultura di riferimento di libertà, che è quella del nostro paese, che ha bisogno di avere un elenco di persone che nell'espressione della libertà religiosa in realtà si esprimono in una lingua comprensibile e che abbiano un percorso formativo all'interno di una valutazione che evidentemente non può prescindere da una certificazione. L'abbiamo individuata in quel albo degli imam, proprio per raggiungere quell'obiettivo che troppo spesso a parole viene definito, quello di nascondersi dietro la libertà religiosa per poi entrare in una moschea ed entrare in un altro mondo autoreferenziante, autoghettizzante, che in realtà tenta di far marcare di più le separazioni e le distinzioni rispetto a quel paese che ti ospita per lavorare e per darti un'opportunità di una vita migliore. Ci sono migliaia di testimonianze. Infatti l'ascoltatore ha colto un aspetto, che c'è sempre la riserva del giudizio da parte dei cosiddetti capi della comunità musulmana, che in realtà aspettano il terzo grado di giudizio. Noi comunque non facciamo pregiudizi, però sembra a volte, sentendoli parlare anche oggi, che non accada mai niente in questo paese. Ma niente no, però che aspettiamo il terzo grado di giudizio lo aspetto anch'io, anche lei forse, onorevole Gibelli, insomma, in un paese garantista. Era in termini di non giudiziari, ma di ragionevole dubbio. Sì. No, no, ma guardi, oggi tra l'altro sul giornale ci sono l'elenco, per esempio, e su qui voglio andare prima degli altri ascoltatori da Abu Shuaima, ci sono l'elenco, per esempio, Abu Imad del centro di Viale Jenner a Milano, condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione, Murad Trabelsi, ex imam della moschea di Cremona, 7 anni di reclusione passato in giudicato per terrorismo internazionale di matrice islamica, poi c'è stato il caso di quello di Torino, Buriki Bushta, che è stato espulso, tre imam sono stati espulsi a Torino. Cioè Abu Shuaima, e risponda così all'ascoltatore che diceva il controllo degli imam, le prediche in italiano, ci sono però dei casi sui quali, voglio dire, non si può né dire sempre ma non si sa, aspettiamo, però non si può neanche dire, come ha detto D'Ambruoso, che non esiste nulla. No, vedi, io questo che dice che la predica deve essere in italiano, questo lo giudicano i musulmani secondo il pubblico che sente, eccetera, perché la predica deve essere ascoltata da un pubblico che le capisce, eccetera. E io non credo che il popolo italiano costringe gli ebrei a parlare soltanto in italiano, come costringe i cristiani, anche quelli tradizionali, di fare la predica soltanto in italiano. E questo non vuol dire che non facciamo, io personalmente faccio la predica in arabo, in italiano, nello stesso momento e traduco quello che dico, eccetera. Poi il governo italiano non è che le mancano le traduttori, se vogliono controllare quello che dicono gli imam non possono registrarlo e anche a fare la traduzione e sapere quello che dicono. Ci sono stati casi, quello che dicono che deve essere la predica per forza in italiano, e questo è stato chiaro dal popolo che ascolta. Però Ali Abu Shuaima, ci sono state anche trasmissioni di gente che è andato a registrare in moschea, ci sono stati casi di condanne, quelle che gli ho citato, quindi secondo lei, le chiedo, quello che ha citato, prima di tutto le dico, Abu Ahmad è stato condannato non per terrorismo ma per associazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo, è stato mandato senza essere fatto né processo né altro, ma è mandato così con decreto del ministro. Così ci saranno stati degli elementi, possono anche essere condannati, perché io non dico che bisogna chiudere una chiesa perché si è trovato dentro qualcuno che prega di mafiosi, perché i mafiosi possono entrare dappertutto, come anche terroristi possono entrare dappertutto quando si scoprono, e noi siamo i primi a preoccupare di questo per denunciarli se lo troviamo. Poi le chiederò sull'albo degli imam, come la giudica l'albo, cioè il controllo. L'albo degli imam è giusto che si fa l'albo degli imam, ma lo fa la comunità islamica. Vedi, anche per i professionisti, io sono un medico, noi quando nell'albo della provincia di Milano noi scegliamo i nostri rappresentanti e come bisogna scrivere all'albo, e quindi figurati per la religione. Quindi questo è un compito della comunità islamica, che deve fare l'albo dell'imam, e non c'entra un governo laico che non deve entrare nella religione oppure mettere delle leggi per religione. Allora, deve controllare giustamente e deve mettere le regole, però le regole dentro una comunità per una religione le mettono l'addetti a questa religione e quelli che sono i capi della comunità. È stato chiaro nella sua posizione. Due ascoltatori, Omar, che è lì da un po', e lo ringrazio per la pazienza. Omar da Milano, buongiorno. Sì, pronto. Dica. Buongiorno a lei, suo interlocutore. Sì, la mia è un'osservazione riguardo il terrorismo internazionale, nel senso che io da anni che sono in Italia, adesso ogni volta che ci sono degli attentati vediamo che in Italia ci sono degli arresti, e poi alla fine magari la maggior parte sono innocenti, perché dipende da questa intercettazione che li interpreta. Staremo a vedere, anche Libero sì. Ha detto è una cosa, sembra kamikaze da operetta, però non sminuiamo, cioè voglio dire, la Digos ci ha lavorato 2 anni, non è che si saranno tutti presi degli abbagli clamorosi, vedremo insomma. E poi la contraddizione del ministro della Lega quando dice che non siamo in grado di distinguere, una contraddizione, i servizi segreti sono così bravi che smascherano sempre le attentate prima che succedano e non sono in grado nello stesso tempo di controllare quelle sono le io non li chiamo neanche a moschea, magari in Italia se andiamo a vedere come moschea ci sono 2-3 moschee, sì, due ufficiali, sono tutti covi dove siamo come topi, e ci vuole prima dovete creare le moschee prima di fare l'albo dell'imam. Se non ci sono moschee non so perché serve l'albo dell'imam. Va bene, quindi io sono pure l'albo dell'imam, sono pure che il governo mette mani fino a un certo punto, non intermette nella religione, questo è il primo. E le moschee anch'io, io a volte ce l'ho anche con il rappresentante delle moschee, a volte non ci rappresentano neanche, anch'io per questo che voglio che il governo mette mani fino a un certo punto. Lei da dove viene? Da dove viene? Algerino. Io sono algerino, adesso c'è gente che manipola le moschee e sono lì anche se non fanno le cose magari a favore della comunità, e sono sempre loro che gestiscono le moschee. Va bene. A volte noi siamo contro. E queste le moschee, nel senso, è un'altra cosa, sì, voglio dire. Concludo. Che magari se concludo con questo, che voi magari quante volte a me, come degli amici con cui parliamo, a voi quanto vediamo l'ingiustizia nel mondo, ce la prendiamo con l'incidente. E poi noi andiamo in moschea che ci fa fare una doccia fredda e non ci butta la benzina sulla nostra rabbia. Io quante volte mi trovo arrabbiato quando vedo l'ingiustizia in Palestina, in Iraq. Quando vado in moschea non mi mettono la benzina sul mio corpo, mi raffreddano con l'acqua. Vedi che questo non è. Quindi lei dice non ha esperienze di questo tipo. Però voglio dire, lei... io sono un autotrasportatore, io sì. Oggi sono da Milano, oggi prego a Piacenza, io prego a Cremona, non ho mai assistito a una cerimonia del venerdì dove ho sentito, io sono musulmano credente, non so, almeno due volte al giorno prego in moschea, il venerdì lo faccio ogni volta in un posto diverso. Non l'ho mai sentito, no, ma va bene, mi interessa insomma la sua esperienza, la ringrazio per averci raccontato. Giuseppe da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io vorrei semplicemente attirare l'attenzione degli scettici, di quelli che credono che questi fenomeni siano marginali, sugli scritti di Oriana Fallaci, gli ultimi della sua vita, in particolare sul fenomeno che lei chiama di islamizzazione dell'Europa, fenomeno che io ritengo vero purtroppo. E ritengo quindi che sia importante creare delle barriere a questo fenomeno. Ora, va da sé che la proposta della Lega è un po' forte, ma dobbiamo salvaguardare la nostra identità, la nostra cultura, e dobbiamo in particolare difenderci dal fenomeno dell'invasione di questa cultura. Perché non è una vera e propria, come posso dire, immissione nella nostra cultura, quell'islamica. Quindi mi perdoni, me la metta in due o tre punti. Lei cosa farebbe? Non vorrebbe le moschee? Non vorrebbe l'immigrazione da tutti i paesi musulmani? L'immigrazione non la possiamo fermare, ma possiamo vietare, per esempio, il proliferare di centri islamici o di moschee. Ma guardi che, allora... ribadiamo, sono due le moschee ufficiali in Italia e il primo... Quelle ufficiali. Tutti gli altri, come ha detto Ali Abu Shuaima, sono, che ne so, centri islamici, a volte appunto scantinati, centri così un po' posticci, sale che vengono messe nelle sottoscale, eccetera. E sono loro i primi a dire togliamo queste per dare invece dei luoghi di culto anche dignitosi, anche fatti bene, eccetera. Da questo punto di vista, onorevole Gibelli, perché invece non la si può ribaltare così? Cioè, è vero, eliminiamo tutte quelle che sono quelle situazioni precarie e incontrollabili, e da questo punto di vista ne deve dare atto Ali Abu Shuaima, l'ha detto, insomma, togliamoli tutti questi e facciamo invece delle moschee bene, controllate, fatte ad arte, insomma, come può essere una chiesa, come può essere una sinagoga. Che dice lei? Ma sarei d'accordo se la comunità islamica dopo 50 anni firmasse un concordato con lo Stato italiano, cosa che non avviene per le divisioni interne, ma soprattutto per la grande diversità culturale rispetto al nostro paese. Se questo venisse fatto si potrebbe accettare, ma la ragione è per l'incapacità di definire un percorso che ad esempio le altre chiese hanno fatto. Fino a quel momento la risposta è assolutamente no. Le moschee sono luoghi di continuità culturale rispetto alla non accettazione della nostra identità, come è stato sottolineato. E la moratoria e il referendum, in assenza di una legge generale che stabilisce i rapporti tra la comunità islamica e lo Stato, lo si attende da 50 anni, va affidato questo giudizio al popolo attraverso il referendum. Se le comunità locali, lombarde, piemontesi, venete, laziali, campani di tutto il paese ritengono che ci debba essere un luogo che ha queste caratteristiche, lo si affida al giudizio del popolo attraverso un referendum. E questa è nella proposta. L'osservazione sul fatto che non c'è un accordo tra lo Stato e gli esponenti della religione islamica è un'osservazione pertinente che ieri faceva anche Marcello Sorgi sulla Stampa. A questo proposito, Ali Abu Shuaima, Marcello Sorgi diceva certo non si fa un accordo tra lo Stato e la religione islamica, perché la religione islamica è frammentata, ci sono tanti rappresentanti, non si sa con chi parlare, ci sono tante correnti. Questo è un problema che dovete affrontare all'interno? Sì, è un problema senz'altro, però non è questo che può prendere come scusa per non fare il concordato con la religione islamica. E beh, ma con chi lo si firma? Stato islamico ha fatto anche con i protestanti, che sono anche frammentati, diverse chiese, così, è un concordato con i protestanti. può anche scegliere, adesso ci sono due moschee ufficiali con qualche magari rappresentante di associazione grande a livello nazionale, di fare come è stato fatto in Francia, un consiglio per la comunità islamica, e questo che può fare il concordato con l'Italia. Andiamo a Firenze da Majid, spero di pronunciarlo bene. Majid. Sì, sì, sì, buongiorno, saluto tutti e complimenti. Senta, io da ex, cioè praticamente un musulmano non praticante, cioè dico veramente bisogna dare retta al procuratore che si è espresso prima. D'Ambruoso. No? Davvero, perché bisogna proprio stare attenta a tutta questa gente qui, perché il 90% anche più, che sono gente proprio non ha né ideali né nulla, sono qui proprio disprezzano tutto quello che hanno, le è stato offerto e ce l'hanno qui, capito? Ma non solo con la gente di qua, cioè gli italiani e tutto, ma anche con le familiari stesse. Cioè, capito? Mi scusi Majid se ho capito bene, sì, lei dice che c'è un problema di molti musulmani che vanno anche, che frequentano le moschee, che non sono integrati, e dice anche addirittura disprezzano per i valori. Nulla. Bravo, cioè. Ma loro proprio tengano le mogli, i figlioli, tutti sacrificati, cioè praticamente non, loro fanno quello che vogliono, però non danno libertà ai figlioli che sono nati qui. Poi c'è un altro problema che avete tirato su fuori ora, questi imam, ma chi è che li ha mandati? Allora, la religione cristiana ci sono le chiese, c'è il Vaticano, no, che manda la gente a fare missionari e roba varia, giusto? Mi segui? Certo. Loro, ma chi è che li ha messi come imam? Io quando ero in Tunisia, io sono d'origine tunisina, ma e là io non so nemmeno come viene fatto l'imam. Non c'è proprio una c'è questi signori, chi sono? Chi è che l'ha messo a fare? Grazie, cioè, Majid, per il suo racconto. Ali Abu Shuaim vuole rispondere delle persone che dice che lui vede concretamente di persone molte islamiche che non apprezzano i valori, certo, occidentali. Prima di tutto gli imam veri vengono, mi scusi, mi sì. Fa parlare? È in diretta, prego. Dicevo, gli imam veri delle moschee ufficiali, anche quelle di grossi centri, sono laureati in Sharia, sono laureati nella legge islamica, e quindi sono a tutti gli effetti scelti secondo il criterio islamico. Ci sono quelli che vengono improvvisati, fanno gli imam eccetera, ma ripeto questo perché non c'è libertà per costruire le vere moschee. Poi voglio dire dell'identità dell'Italia, l'identità dell'Italia le fanno tutti i cittadini, sia musulmani che cristiani che ebrei eccetera, non lo fa soltanto la Lega, che deve avere quel pensiero del Medioevo che è della pura sangue. Oggigiorno ogni cittadino che porta la cittadinanza italiana può contribuire alla identità dell'Italia secondo la legge italiana e la Costituzione italiana. Senta, cioè, ma mi dice cosa pensa del Vaticano che ha detto sì, la costruzione di moschee, ma controlliamole. Ma controlliamo, bisogna controllare tutto, anche le chiese, anche le sinagoghe, questo è il controllo, noi siamo favorevoli al controllo, anzi io chiamo... Guardi, statisticamente... ...di venire a sediare davanti alla mia moschea, perché ho paura anche degli italiani che hanno buttato le bombe anche alla nostra moschea, come hanno buttato a diverse moschee. Quindi statisticamente però... e vogliamo il controllo per quelli che possono essere infiltrati, sì, come di quelli che ci minacciano. Però, Shuaima, mi perdoni, statisticamente, leggendo le inchieste, sono nati e sono sorti più problemi rispetto al proselitismo nelle moschee rispetto che al proselitismo nelle sinagoghe o nelle chiese italiane, per quel che riguarda il terrorismo. A me risulta, no? Il magistrato non c'è, forse è andato. Sì. Con tutte le inchieste che sono stati, anche se faceva Baccano, per esempio di via Enner, sono accusate 70 persone con quelle inchieste Sfinge eccetera, ma non è stato condannato nessuno di loro, Ripeto, Abu Ahmad è stato condannato per associazione no, di l'ha già detto, però io quindi, sì. Come vedi, ci sono tante inchieste ma non sono risultati, non arrivano alla condanna. Io penso che fra qualche mese saranno fuori questi qui dicendo che scusa, abbiamo sbagliato, ma nessuno scrive una lettera di dire che è tutto stato sbagliato. Staremo a vedere. Allora mi devo fermare qui, torneremo a parlarne perché insomma vedete anche gli ascoltatori, tanti che hanno chiamato, il tema è molto caldo. Ringrazio l'onorevole Cibelli, Abuali Shuaima e Stefano D'Ambruoso. Ci fermiamo qui, in redazione Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi, Giorgio Mattei in regia. Ci ritroviamo con Viva Voce lunedì mattina.